Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Bentrovati da Francesco Galante, eccoci con l'appuntamento dell'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, che da oggi ritorna proprio al lunedì e poi ancora al mercoledì. Saluto con noi Gianluca Codognato al telefono. Ciao Gianluca. Ciao Francesco e un saluto anche agli ascoltatori. Già la settimana scorsa avevamo accennato del fatto che molte persone si sono rivolte all'Adico per problemi legati al canone televisivo che sappiamo abbiamo trovato nella bolletta dello scorso mese, quella elettrica. Perché molti si sono rivolti a voi? Perché ovviamente qualcuno si è trovato a pagare indebitamente questi soldi. Sì Francesco, l'avevamo promesso e oggi ne dobbiamo parlare assolutamente, perché noi oggettivamente in questo periodo siamo veramente subissati di chiamate, insomma di richieste d'aiuto anche di persone che si presentano direttamente in sede, perché insomma è sorto un po' il panico con le ultime fatture, le ultime bollette arrivate alle varie famiglie, perché ci sono questi famosi 70 a luglio o 80 ad agosto euro per il famoso canone RAI pagato in bolletta, come annunciato ampiamente da inizio anno, anzi da prima. Cosa succede? Succede che al di là del panico e della gente che oggettivamente protesta, ma alla fine deve pagarlo, ci sono molte persone, molte situazioni, ma veramente tante, in cui effettivamente il canone non sarebbe dovuto. Gli esempi classici sono di chi ad esempio si ritrova ad avere due utenze e si trova a pagare il canone in entrambe le utenze, cosa che non dovrebbe assolutamente succedere. Due utenze elettriche sto parlando, magari perché ha due case. C'è chi si ritrova a pagarlo pur avendo fatto palesemente richiesta di esenzione, non avendo il televisore, eppure gli è arrivato lo stesso la richiesta di pagamento. Ci sono persone a cui è arrivata la richiesta di pagamento pur non essendone soggetti. Ci sono delle categorie tipo appunto gli over 75 con redditi non superiori ai 6.700 euro circa, che sono esenti e che hanno ricevuto lo stesso la richiesta di pagamento. Ricordiamo comunque che queste persone devono comunque fare richiesta di esenzione. Insomma, abbiamo vari casi, ma molti casi in realtà, di richieste da parte dell'Agenzia dell'Entrata di addebiti, anzi già contenuti nelle bollette, e per le quali le persone vogliono capire come chiedere un rimborso. Ora, con una certa semplicità, da poco tempo la stessa RAI, la stessa Agenzia delle Entrate sta spiegando come richiedere rimborso. Da qualche giorno è già possibile inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno, diciamo anche dove esattamente, magari vediamo se i radioascoltatori si appuntano l'indirizzo, ma se no si trova su internet. Comunque Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, Sportello Abbonamenti TV. La casella postale è la 22 10121 Torino. Comunque è la solita sede alla quale si fa riferimento anche quando si paga il canone. Qua è già possibile inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno e scaricando tra parentesi il modulo sempre dall'Agenzia delle Entrate, nella quale appunto si contesta il pagamento non dovuto del canone e si richiede il rimborso. Spiego che dal 15 settembre sarà possibile direttamente chiederlo in via telematica, quindi direttamente tramite il sito dell'Agenzia delle Entrate o della RAI sarà possibile inviare direttamente il modulo, ecco, quindi evitando la scomoda e costosa anche raccomandata con ricevuta di ritorno. Nel momento in cui si è presentata la domanda, e la domanda deve essere presentata, ricordiamo Francesco anche questo, o dal titolare del contratto di fornitura elettrica oppure da uno dei suoi eredi, nel caso in cui il titolare sia venuto a mancare. Certo. Cosa succederà poi, Francesco? Semplice, l'Agenzia delle Entrate farà chiaramente i suoi accertamenti, svolgerà tutti i suoi accertamenti. Se appunto rileverà che il canone non era dovuto, invierà la richiesta di rimborso chiaramente alla compagnia elettrica che fornisce l'energia elettrica e che ha inserito la richiesta di pagamento del canone nella propria bolletta. Dopodiché sarà appunto la compagnia che fornisce l'energia elettrica a inserire il rimborso nelle bollette successive. Il metodo pare abbastanza semplice, Francesco, ci aspettiamo che chiaramente ci saranno molti problemi anche su questo fronte, nel senso che sicuramente saranno problematiche anche per i rimborsi, perché non arriveranno, perché ci saranno contestazioni, eccetera. Però intanto vogliamo, diciamo, tranquillizzare gli utenti, perché è possibile comunque farsi restituire i soldi non dovuti per un canone appunto non dovuto, seguendo queste metodologie. Chiaramente tutte queste cose che stiamo dicendo adesso ai nostri radioascoltatori si possono trovare ovviamente in internet, soprattutto nei rispettivi siti della RAI o dell'Agenzia delle Entrate, quindi chiunque può andare a vedere e anche per scaricare, può scaricare il modulo, può informarsi. Questo penso che possa mettere anche un po' di tranquillità alle tante, veramente tante persone che hanno ricevuto la richiesta di pagamento nella bolletta e che la dovranno pagare, perché effettivamente certo, a questo punto dovranno pagarla. E però sappiano insomma che si può chiedere rimborso, ecco insomma, è una cosa che ci consola. E avere poi nelle prossime bollette la scalatura del credito, insomma. Ecco, la modalità del rimborso dovrebbe essere sicuramente quella che dici te, Francesco, cioè appunto un andare a scalare sulla bolletta. E questo chiaramente poi verrà definito poi dalle stesse compagnie. Chiaramente ci troviamo, Francesco, di fronte a un argomento completamente nuovo, di fronte a un provvedimento totalmente nuovo che sta creando malumori, però per il quale poi vedremo anche il possibile successo, perché se davvero riuscirà a combattere la grandissima evasione di questa tassa e soprattutto se davvero poi potremo avere finalmente, adesso dico finalmente una cosa soggettiva, ma una RAI davvero di qualità, insomma alla fine penso che saremo tutti contenti. Speriamo che sia così. Eventualmente per altri problemi legati al canone l'Adico c'è. L'Adico ovviamente c'è e siamo sempre qua disponibili per fornire informazioni. Sottolineiamo però, questo è importante, per quanto riguarda il canone l'intervento del nostro ufficio legale non è assolutamente necessario, non è assolutamente richiesto, quindi ripeto, per informazioni noi siamo qua, anche se poi tutte le informazioni sono tranquillamente scaricabili anche dai siti, appunto da vari siti, però dopo alla fine sarà l'utente stesso ad arrangiarsi tranquillamente nel caso appunto della richiesta di rimborso o nel caso di contestazioni varie. Grazie quindi a Gianluca Codognato, grazie all'Adico che ritroveremo dopodomani. Grazie a te, Francesco. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.